Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di vari rapporti usciti oggi sulla situazione dell'economia italiana e non solo, perché da un lato c'è stata la presentazione del progetto del rapporto Einaudi Intesa San Paolo su un insieme di interviste effettuate e l'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani. L'indagine annuale, chiaramente questa riguarda il 2015, ma si chiama 2016. Tra l'altro, a sorpresa degli stessi ricercatori del Centro Einaudi, si torna al mattone. Il 60% delle famiglie giudica imminente un miglioramento. Attenzione, le interviste sono terminate però a marzo del 2016, quindi tutto l'effetto Brexit e anche altri attentati non è incluso, è incamerato. Comunque, fino ad allora il 60% giudicava un miglioramento della situazione economica e il 20% prevedeva un aumento delle spese. E tra l'altro, appunto, il mattone usciva come scelta di investimento, complice anche i tassi di interesse minimi. Però oggi è anche il giorno di Mario Draghi, uno dei giorni di Mario Draghi, perché c'è stata la riunione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, che ha lasciato i tassi invariati e ha detto che a livello attuale resteranno a lungo, forse anche a un livello inferiore, e poi ha confermato che continua la Banca Centrale Europea a condurre acquisti mensili di attività per 80 miliardi di euro e continuerà a farlo fino al mese e continuerà a farlo fino al 2017, a marzo del 2017. Che ha poi anche aggiunto che il Consiglio della Banca Centrale Europea monitora la situazione per il dopo Brexit e sul tema delle sofferenze bancarie e quindi i crediti che le banche non riescono più a riavere, ha detto: questo è un problema, il tema dei crediti deteriorati in Europa è un problema, le banche e le regole europee permettono tutta la flessibilità necessaria per aiutare le banche. Il paracadute pubblico può essere usato dalle banche o per salvare le banche può essere usato solo in casi eccezionali o quando il mercato dei crediti deteriorati è sotto pressione. Non è un commento da poco, perché ha ribadito Draghi, o meglio, ha sottolineato che il paracadute pubblico non è proibito. Si può usare in casi eccezionali. E allora, e anche perché quando l'andamento dei prezzi, delle sofferenze è talmente sotto pressione, vuol dire che c'è un atteggiamento anche speculativo e può generare un problema sulla solidità stessa delle banche. Però, ha aggiunto Draghi, un possibile paracadute pubblico per i crediti deteriorati delle banche è una misura molto utile, ma deve essere presa d'accordo con l'Unione Europea e specialmente con la Direzione Generale della Concorrenza della Commissione. Perché la Direzione Generale della Concorrenza della Commissione? Per evitare che venga posta l'accusa di aiuti di Stato. Sentiamo questo passaggio e poi le altre notizie in breve. Monetary policy. La politica monetaria certamente sostiene l'attività economica e ha come obiettivo mantenere la stabilità dei prezzi. Però sono necessarie altre misure per allargare il più possibile i benefici della nostra politica monetaria. Una di queste misure è quella di affrontare il tema dei crediti deteriorati nella zona euro. Questa è una riforma molto importante ed è una questione che va affrontata. Sull'ipotesi di aiuti di Stato alle banche abbiamo le regole europee e, come ho detto diverse volte, queste regole contengono tutta la flessibilità necessaria per affrontare circostanze eccezionali. I poteri e la responsabilità dell'attivazione di queste regole ricadono sulla Commissione europea. And the responsibility in activating these rules and in complying with these rules lies with the Commission. quindi il rapporto del Centro Studi Naudi di Intesa San Paolo, gli avvertimenti, le indicazioni arrivate da Mario Draghi, ma anche il rapporto del Centro Studi Confindustria. Oggi si concentrano elementi di carattere, chiamiamolo così, macroeconomico. Perché lo dico sul rapporto del Centro Studi Confindustria? Perché oggi l'analisi mensile stima che, come già avvenuto anche da altre analisi, gli ultimi avvenimenti politici rendano la crescita globale ancora più fragile. È a metà del 2016, questa non è una bella notizia, la più debole degli ultimi 3 anni e mezzo, nonostante si siano verificati progressi negli Stati Uniti. Il PIL italiano è cresciuto dello 0,15% nel secondo trimestre contro lo 0,25% stimato, e non sarà molto più vivace anche nel terzo. Questo lo dico perché il governo dovrà tenerne atto, visto che a ottobre deve fare iniziare a esaminare la legge di stabilità finanziaria. Non faremo, se facciamo l'1 è un miracolo a mio avviso, l'1 stimato, ma più probabile che si faccia lo 0,8. La borsa intanto più 0,5% Milano, invariata Parigi, più 0,20% Francoforte, invariata Londra, invariata anche leggermente negativa l'America sul Dow Jones, euro a quota sempre 1,10, fermo lì da intere giornate. Ebbene, il Banco Popolare più 4%, la Pop Emilia Romagna più 3,70, Unicredit più 2,11, e sul fronte bancario recupera qualcosa anche Monte dei Paschi più 1,60, bene anche Ferragamo più 2,80%, Azimut più 2,11, Tenaris più 1,90, chiudo con Ferrari più 1,5 ed Enel più 1,40 come Fiat Chrysler. Di negativo c'è poco, è abbastanza misto. Prismian meno 1,5, Unipol meno 1,20, Saipem meno 1,1, Ubibanca meno 0,60, Exor meno 0,5. Allora, al di là poi delle indicazioni che arrivano oggi dagli scenari, dagli Stati Uniti arriva un dato migliore delle attese, sia sui sussidi alla disoccupazione, sia sul superindice economico che sulle vendite di case esistenti. Sono 3 indicatori, per carità, di carattere congiunturale. Comunque, le richieste di sussidi sono scese la scorsa settimana con più delle attese. 253.000 sono i minimi degli ultimi 3 mesi. Il superindice economico, che è un indicatore aggregato dell'attività economica americana, è salito a giugno dello 0,3%, e le vendite delle case negli Stati Uniti sono cresciute sempre a giugno dell'1,1%, un dato superiore anche in questo caso alle attese degli analisti, che invece scommettevano su un calo delle vendite delle case negli Stati Uniti. E delle banche europee ha parlato oggi di nuovo il Fondo Monetario Internazionale, nel documento preparatorio per il G20 che si terrà il 23 e il 24 luglio, quindi dopodomani, nel fine settimana in Cina, e ha detto sulle banche europee: l'Unione Europea deve affrontare il problema del settore bancario, che rappresenta elementi di rischio al ribasso per la crescita economica. La crescita sarà debole, pesa la Brexit, la crescita economica globale, si possono anche avere operazioni con tassi negativi, riferito alle banche centrali, ma attenti all'impatto che hanno sui bilanci delle banche. Perché? Perché è chiaro che più bassi sono i tassi, minore è il margine che le banche possono fare nel prestare i soldi, mutui e quant'altro. Il problema che hanno, per esempio, in questo momento le banche tedesche, non solo, cioè con tassi bassi e rendimenti obbligazionari sotto zero in alcuni casi, i margini di guadagno bancario si riducono. Comunque, delle parole di Draghi e sulle parole di Draghi si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi, lo ricordo, anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alessandro Plateroti. La Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare inalterati i tassi di interesse e di non operare nuovi interventi sul fronte della liquidità o quantomeno interventi aggiuntivi. Ma che cosa sta succedendo, visto che il Fondo Monetario proprio pochi giorni fa ha detto che l'effetto Brexit si sentirà con un rallentamento globale e soprattutto europeo? È un'opinione che in questo momento Draghi sembra non avere, tant'è vero che ha persino messo in evidenza come i mercati finanziari abbiano saputo reagire nel migliore dei modi allo shock creato dal referendum inglese. Ma anche se bisogna sempre prestare attenzione ai mercati finanziari, visto che è la stessa BCE ad alimentarli con la liquidità, fatto sta che evidentemente gli effetti negativi di Brexit ancora non si sono visti, al contrario però di quello che avviene sulla politica. Il messaggio reale di Draghi è: dalle banche agli aiuti di Stato e persino a Brexit, non è certamente un problema finanziario di liquidità quello che hanno i mercati. In realtà è un problema politico. Come tante altre volte nei tempi recenti, la capacità politica della Commissione europea, la capacità di gestione delle crisi e soprattutto di poterle prevenire sembra fare acqua, lasciando proprio alla Banca Centrale Europea un ruolo politico che non è suo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it. e rds.it. Allora, prima di arrivare al primo tema, due notizie. Una non bella, mi riferisco all'audizione di Tito Boeri, presidente dell'INPS al Senato, il quale, dopo aver definito il Jobs Act in parte, in gran parte un successo, ha chiesto una misura universale di contrasto contro la povertà. È un primo passo significativo il nuovo piano del governo di sostegno per l'inclusione attiva, ma certamente non basta. Poi ha fatto notare Boeri che e il disegno di legge delega sulla povertà prevede tempi lunghi per finanziare un reddito minimo prevede il riordino delle prestazioni assistenziali solo sui nuovi trattamenti, quindi è una condizione molto restrittiva e limitata dell'intero provvedimento. E poi ha fatto notare una cosa, dicevo, che le detrazioni IRPEF per figli a carico oggi spettano anche le famiglie più ricche, mentre restano scoperti i nuclei redditi molto bassi. Insomma, questo andrebbe obiettivamente levatelo alle famiglie più ricche, dato i redditi più bassi, ma qui siamo alla banalità quasi. La buona notizia riguarda l'ATAC. Non voglio anticipare la classifica di domani, però ci siamo occupati in non so quante volte è finita la nostra classifica sugli sprechi l'ATAC, e ci eravamo occupati delle gomme, no? Te la ricordate? Praticamente su 12.000 pneumatici in 3 anni ne hanno cambiati 11.400 per usura, 15.000 per rottura, e praticamente l'ATAC che spendeva 16 milioni di euro per comprare le gomme nonostante un contratto full service per un importo di 8 milioni, avevamo scoperto tra virgolette che c'era un dipendente che aveva una società che forniva le gomme all'ATAC, che stranamente, dopo che è arrivato il commissario straordinario, le gomme hanno smesso di rompersi, di forarsi, di usurarsi. Nell'anno precedente al rinnovo contrattuale 2012 avevano già cambiato 10.000 gomme per usura, 8.500 per rottura, 4.800 gomme termiche cambiate e altri 2.500 pneumatici già pagati. Tutto quanto si è dimezzato con l'arrivo del commissario. Avevamo raccontato anche dello strano ruolo che hanno i sindacati dentro l'ATAC, la peggiore municipalizzata dei trasporti d'Europa, secondo la stampa tedesca, e quindi il fatto che i sindacati gestiscano direttamente le 18 mense, i bar e i 151 distributori automatici, abbiano assunto 11 persone nel 2016, nonostante l'ATAC perda bocca di barile. Quest'anno, l'anno scorso, ha perso 1.300 milioni, no? E anche le ore di agibilità sindacale, 111.000 ore, 12.000 ore più del monte a disposizione, praticamente corrispondono i permessi sindacali a 82 persone che non lavorano ogni anno all'ATAC, 82, con un costo di 3.770.000 euro per portare un'azienda a questa gestione. Poi avessero fatto chissà che controllo. Addirittura risultano in distacco continuativo presso due sindacati CGIL e CISL tre dipendenti per i quali non vi è alcuna giustificazione a partire dal 2015. Per cui, in seguito anche all'interruzione del rapporto associativo dell'ATAC con Astra, cioè l'associazione delle aziende di trasporto, l'ATAC non fa più parte di Astra, ma ci sono tre dipendenti che continuano a essere distaccati nel sindacato come se vi facesse ancora parte. Qui, fantascienza, no? Perché e dov'è la buona notizia? Oh, qualcuno mi scrive sempre che ma la sua classifica non serve a niente perché non si muove mai niente. Non so se sia merito della classifica, ci mancherebbe, però si è mossa la Procura di Roma e la Guardia di Finanza. Adesso lo leggo. Allora, la Guardia di Finanza ha eseguito oggi un insieme di perquisizioni nelle sedi del Dopolavoro ATAC, l'associazione dei sindacati che gestisce le mense e bar aziendali, su mandato della Procura di Roma. L'inchiesta riguarda, vuol far luce sui rapporti economici e contrattuali tra ATAC e l'associazione Dopolavoro ATAC e Cotral. Quest'ultima, che gestisce bar e mense aziendali, costa 4 milioni di euro l'anno. E i permessi sindacali vogliono indagare anche su questo, se siano stati compiuti illeciti con la concessione di permessi retribuiti per un numero di ore eccedenti rispetto a quelle previste. 4 milioni e 300 mila euro costato, correggo la cifra, il costo dei permessi sindacali all'ATAC nel 2015. L'indagine, in realtà, al di là delle battute, è partita dal mitico direttore generale Marco Rettinghieri, che noi lo odiamo, lo dico senza, al neosindaco Raggi, ma tenete sto Rettinghieri, da quando c'è lui i pneumatici non si rompono più, i furti sono scomparsi, 10 milioni di euro di furti nei magazzini ogni anno a bilancio sono quasi scomparsi. Adesso arriva la Guardia di Finanza a guardare come viene gestita dai sindacati il dopolavoro e i 4 milioni, ma insomma. E Marco Rettinghieri ha consegnato al capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, una serie di atti relativi ai distacchi sindacali del personale, a gestione del dopolavoro, fornitura di gomme per gli autobus. Bravo Rettinghieri, bravo. Immagino che tutti i sindacati dell'ATAC saranno con il direttore generale che vuol far pulizia su corruzione, malversazione, furti. Tutti i sindacati, giusto? Immagino che si metteranno a difendere con striscioni un direttore generale che vuole sanare una situazione disastrosa di un'azienda che andrebbe chiusa, licenziati tutti e riassunti, perché con 1,4 miliardi di buco che ripianiamo noi, lo dico ai sindacati dell'ATAC, paga pantalone. Per cui immagino i cortei e il servizio d'ordine attorno all'ufficio del direttore generale per l'operazione di pulizia e onestà e trasparenza che sta compiendo, non ho dubbi. Vabbè, andiamo al primo tema, il rapporto sul risparmio degli italiani. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, andiamo a tassi bassi e volatilità, si ritorna al mattone, nel senso mattone come investimento. È il titolo del rapporto Centro Einaudi e Intesa San Paolo, interviste, come ogni anno viene pubblicato il rapporto sul risparmio. Siamo in collegamento con il capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, buonasera. Buonasera a tutti. Io so già le critiche che arriveranno, adesso lei vuole vedere, volete vedere tutto in maniera ottimistica, il 60% delle famiglie che avete intervistato è ottimista, prevede addirittura il 20% un aumento della spesa, la battuta la faccio io prima che me la scrivano, è dove le avete trovate, le avete cercate con l'omicino. In realtà chiariamo seriamente due cose, le interviste sono terminate a fine febbraio, giusto? No, perché di mezzo c'è stato Brexit, Nizza e quant'altro. E soprattutto non è che trovare delle famiglie ottimiste significhi che tutto va bene, madama Marchesa. De Felice. No, allora, le interviste sono fatte dalla Doxa con un campione rappresentativo della popolazione italiana. Sono circa 1100 interviste. Naturalmente è vero che queste domande telefoniche, alcune altre fatte di persona dagli intervistatori, sono di qualche mese fa e che Brexit può aver modificato sentiment di fiducia delle famiglie italiane. Anche vero però che Brexit, il Regno Unito non è ancora uscito e non si sa neanche quando farà richiesta. E, battute a parte, lo scenario è moderatamente positivo, ma presenta anche degli elementi di complessità. Questo emergeva già prima. Gli elementi di complessità sono legati ad avere un quadro di tassi di interesse a zero o negativi. Questo riguarda in Europa il 57% dei titoli pubblici europei a tassi a zero e il 76% a rendimenti inferiori allo 0,5%, quindi volevamo capire che tipo di reazione le famiglie italiane potevano avere a questo tipo di scenario. E qui l'aspetto interessante è che c'è maggior domanda di consulenza professionale, di consulenza finanziaria, mentre per quanto riguarda le destinazioni degli investimenti c'è una polarizzazione. Sale di molto la quota del proprio risparmio allocata presso depositi postali o conto correnti bancari, perché tanto l'alternativa di investire in bot o in BTP di breve scadenza è addirittura peggiore, quindi perché ha un rendimento inferiore allo zero. Eh sì, perché al netto delle tasse. Al netto delle tasse cosa scrivono negativo. Gli ascoltatori di Felice? Dicono sì. Che con l'aria che tira è meglio mettere i soldi nel mattone che in banca, non glielo dico perché. Infatti, questa però adesso, al di là della battuta, al di là del fatto che lavori per Intesa San Paolo, perché non voglio mettere in difficoltà, però è così, cioè con quello che noi stiamo raccontando. Allora, intanto lei dice giustamente i titoli di Stato che rendono meno di zero e quindi non ti proteggono neanche dall'inflazione, ma poi con i timori sull'andamento dei corsi azionari delle banche, dovessero aumentare di nuovo il capitale, dovessero non far fronte e vedremo cosa succederà alle sofferenze, è chiaro che non puoi mettere in titolo di Stato, non li vuoi mettere nell'azionario a partire dalle banche, non li vuoi mettere nelle obbligazioni bancarie perché il bail-in inizia a entrare, diciamo, nella consapevolezza degli italiani e quindi vai verso il mattone. Infatti ci stavo arrivando quando parlavo di polarizzazione: da un lato l'attività più liquida di tutte, cioè i conti correnti, dall'altro lato l'attività meno liquida, ossia il mattone. Parliamo di intenzioni, certo, di investire nel mattone, non ci sono ancora gli acquisti, se non in minima parte, ma un 29% di questo campione dice che vorrebbe acquistare una casa più grande per la famiglia o per membri della propria famiglia, e addirittura, questo forse è il dato più sorprendente, un 20% delle famiglie italiane vuole investire nel mattone per avere una rendita in termini di canone di locazione che obiettivamente negli ultimi anni era considerato un investimento non particolarmente allettante, anche dato un elevato tasso di morosità degli inquilini. Certo. Sì, oggi la Confedilizia fa notare infatti che il rischio di morosità degli inquilini è del 19% per chi ha... gli elementi che frenano l'acquisto di immobili da destinare alla locazione sono, secondo l'indagine che Confedilizia fa dopo anche il vostro rapporto, sono le tasse che gravano sulla proprietà al 27%, il rischio di morosità al 20%, le difficoltà di entrare in possesso dell'immobile il 14%. Però De Felice, mi dico una cosa, in realtà forse anche un ragionamento su quanto poco, tra virgolette, ha perso il valore, il mattone, rispetto ai corsi azionari o rispetto ai rendimenti obbligazionari. È chiaro che ha perso valore il mattone sul picco del 2005-2006, però se uno va a vedere quant'è il calo, dice beh, tutto sommato lì le oscillazioni sono più modeste. Sì, noi in Italia non abbiamo avuto una bolla del mercato immobiliare come in Spagna o come è stata Londra più volte nel corso degli ultimi 10 anni. C'è stato un calo delle quotazioni di circa il 18% nell'arco di 7-8 anni, parlo dell'usato. Per quanto riguarda le nuove case, il calo è dell'1,5-2%, quindi sostanzialmente nullo. Questo, il fatto di avere tassi molto bassi modifica le scelte di investimento, è quello che dovrebbe succedere per le imprese. Le imprese, se hanno tassi bassi, dal punto di vista finanziario dovrebbero investire di più nelle proprie attività produttive. Questo ancora non sta succedendo perché c'è molta incertezza nello scenario internazionale. Oggi sono particolarmente brillanti, no, sto leggendo i vari ascoltatori al 349-238-6666. Un altro mi scrive: comprano casa perché hanno capito che con il bail-in è meglio essere debitori che creditori. Non è, adesso guardi che non è del tutto felice, è un po' cinico, ma non è del tutto sbagliato, perché se io sono creditore è una cosa, se sono debitore... Anche andare in affitto e non pagare l'affitto. Ammesso che la banca mi eroghi il mutuo, però... In caso di problemi, finché io sono debitore, il problema non ce l'ho. E quando sono e quando compro azioni o obbligazioni della banca che ho un problema. No, adesso a parte le battute, ma potrebbe essere che forse questa spinta che voi registrate in maniera netta verso il mattone, ad aiutare questa spinta vi siano anche i dubbi sulla tenuta del sistema bancario, dubbi più psicologici, perché abbiamo chiarito molte volte che le banche in questo paese non possono fallire. Poi parleremo di Mario Draghi, che ha detto: guardate che si può usare anche la garanzia dello Stato, basta mettersi d'accordo con l'Unione Europea. Per cui, però, un conto è la psicologia, un conto è la realtà dei fatti. Non può esserci anche questo elemento? Beh, io probabilmente sì, c'è un insieme di elementi, c'è il fatto che posso indebitarmi a mutui a tassi che non si erano mai visti nella storia italiana, c'è il fatto che sul mercato azionario la volatilità è diventata pazzesca, infatti nell'indagine notiamo una forte riduzione dell'investimento delle famiglie italiane nell'azionario, proprio il numero delle compravendite annuali è crollato, quindi c'è un senso di distacco dall'azionario. I tassi di interesse sui titoli pubblici, ne abbiamo parlato, e quindi il mattone, che poi ha avuto anche qualche riduzione dal punto di vista fiscale, è tornato più attraente. Io credo dovremmo concepire il mattone in maniera anche un po' diversa rispetto al passato. Quante case rimangono completamente disabitate? Quello che scrivono altri ascoltatori, infatti. Ecco, in altri paesi, se ho la casa al mare ci vado 15 giorni, gli altri 15 giorni della buona stagione o due mesi, eccetera, la scambio con qualcuno e me ne vado in un altro posto. Ecco, noi abbiamo un senso di possesso e di gelosia delle nostre cose incredibile. Questo è tipicamente italiano, ma sono convinto che con la sharing economy anche questa sarà una direzione che seguiremo. Senta, Felice, un'ultima domanda, visto che però chiederò anche agli altri ospiti, il direttore del Censo di Confindustria, e ascolteremo poi Mario Draghi, qui invece vengo alla parte del suo lavoro più quotidiana, cioè prospettive e analisi economica. Anche lei vede un rallentamento dell'attività e quindi un aumento dell'incertezza? Cioè, siete tutti quanti freddini su questo 2016 o diventati freddini su questo 2016? C'è un corso, una generalizzata revisione delle previsioni, lo ha fatto la Banca d'Italia, lo ha fatto il Fondo Monetario, nella media del biennio 16-17 andiamo su un ritmo dell'1% circa, è un po' inferiore a quello che ci si poteva attendere, legato molto questa revisione verso il basso allo scenario internazionale, al calo del commercio internazionale, il contributo dell'export per l'economia italiana è diventato meno brillante, il saldo complessivo è negativo, quindi il saldo import-export non dà più un contributo alla crescita, tutto è circoscritto all'andamento dei consumi. Senza che ci sia una capacità dei consumi di riequilibrare, diciamo, i consumi si sono ripresi, sì. Ma difficilmente accelereranno ancora rispetto al primo trimestre di quest'anno. Grazie anche al capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice. Allora. Vedo molti messaggi sulle case. C'è chi mi scrive che ha perso, dunque, è tre anni che cerca di vendere la casa senza risultato. Voleva vendere nel 2011 a 400-500 mila euro, oggi è sceso a 250 mila, ma non riescono a trovare un compratore. Sì, sappiamo tutti che il mercato della casa è depresso. Si sta ragionando tra, abbiate la pazienza sulla battuta, dove allocare i risparmi in queste, diciamo, situazioni di depressione, perché non rendono le azioni, sono troppo rischiose, non rendono le obbligazioni con i tassi a zero, e allora per esclusione probabilmente vai sul mattone. Poi sull'affitto della casa d'estate, io sono d'accordo, adesso ci sono mille strumenti, Airbnb e quant'altro, è vero che uno può sempre provare ad affittarla. Poi se mi scrivete sì, affittala tu la casa al mare agli unni, poi non sai come te la ritrovi dopo. Vabbè, o la affitti agli unni o te la comprano gli unni fra un po'. Meteo, dai. Focus Economia. minuti. Allora, adesso commentiamo la borsa e prima però anche della borsa vorrei restare in linea con il tema precedente. Chiedo scusatemi in regia se riuscite a trovare una collocazione perché posso vedere gli assistenti, grazie, perché sono impallati completamente, sono cose interne ma non posso dirle in altro modo. E restare sulle prospettive di crescita, perché prima di parlare delle parole di Mario Draghi, dopo aver ascoltato il rapporto di Intesa San Paolo, già facciamo riferimento a quanto diffuso oggi dal Centro Studi Confindustria sulla crescita globale ancora più fragile. Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi. Buonasera Luca. Ciao Sebastiano, buonasera a tutti gli ascoltatori. Restando sulla scia di quanto lì il rapporto Intesa San Paolo era più sul risparmio degli italiani, voi oggi stimate invece un secondo trimestre più 0,15% contro lo 0,25% stimato inizialmente, rischi al ribasso. I progressi nel settore anche nell'occupazione si consolidano, ma non tanto e non solo per gli incentivi. La cosa che più è stata ripresa, non so se ha torto o ragione, anche il rischio che voi evidenziate di una nuova fase di credit crunch, cioè le sofferenze bancarie e il calo dei titoli in borsa possono portare a una stretta del credito. Ho capito bene, Luca? Sì, assolutamente. Sorrido perché c'è una battuta ironica sugli economisti in cui si dice che gli economisti hanno il senso di humor perché usano i decimali, quindi passare da 0,25 a 0,15. I problemi nostri sono un po' più grossi dei decimali. Ah, fossero quelli, allora, i problemi. Appunto. Allora, in realtà però, l'ha detto anche Mario Draghi oggi, e le sofferenze rischiano di imballare se lasciate lì a marcire, scusate il termine, a lungo nei bilanci delle banche, rischiano di imballare la capacità delle banche di trasmettere gli impulsi espansivi della politica monetaria. E come abbiamo osservato dopo il referendum inglese del 23 giugno, i titoli bancari sono stati quelli più colpiti nei mercati finanziari per una serie di ordini di ragioni. La prima è che ovviamente questo terrà i tassi di interesse bassi a lungo, anzi li ha fatti ridurre ulteriormente, questo riduce i margini di interesse delle banche e quindi la loro redditività. La seconda è perché in questa fase di incertezza si rischia di bloccare appunto anche i volumi dei prestiti e quindi di nuovo difficoltà per le banche a fare il loro main business. E tutto questo porta appunto al rischio che si entri in una nuova fase di rallentamento, addirittura riduzione dei prestiti. Ricordo che in Italia i prestiti bancari, lo stock dei prestiti bancari ha ricominciato a salire a aprile e maggio, anche se a ritmi molto molto ridotti, dopo essersi diminuiti questi prestiti sia a gennaio che a febbraio che a marzo. E questo per quello che riguarda i timori, diciamo, sul prestiti e credit crunch. Voi fate notare comunque, perché il rapporto è molto articolato come sempre, che c'è una risalita della produzione industriale che è però disomogenea tra settori e che a sua volta ha subito una battuta d'arresto nel secondo trimestre. A questo punto, Luca, mi rendo conto, sono d'accordo con te, che ci si eccita poco coi decimali nella vita, però voi state dando quasi per scontato che non riusciremo a fare l'1,1% di crescita quest'anno, cioè che sarà un po' più debole rispetto alle stime iniziali, perché poi a ottobre il governo deve buttare giù la legge di stabilità e quindi questo inizia a essere un periodo abbastanza breve da un punto di vista dei cicli. Noi siamo usciti con le previsioni l'1 luglio e abbiamo detto 0,8 quest'anno. Sì. Quindi il tema è: riusciremo a fare 0,8? Ah, bene. L'ultima previsione è stata rilasciata, l'ultima nel senso di ordine di tempo, è stata rilasciata ieri da REF, che quest'anno ci dà 0,6. Però sono un pochino più ottimisti per quanto riguarda l'anno prossimo, danno 0,9, noi viceversa diamo 0,8 quest'anno e 0,6 l'anno prossimo, come conseguenza della onda lunga della Brexit, che fa imballare le decisioni di investimento fondamentalmente. Poi diciamo che sarà un processo lungo, nel senso che probabilmente in questa fase le imprese continuano a operare as usual, per usare appunto un termine inglese in omaggio agli inglesi, come se nulla fosse accaduto, e questo sicuramente lo fanno dal punto di vista degli affari ordinari. Però gli investimenti, le pianificazioni, certo. bravissimi, questo è il tema. Finché diciamo non si capisce che succede, penso che progetti a lungo termine finiscano nel cassetto. Allora, resta con noi Luca, perché poi volevo capire sui settori, visto che voi andate ad analizzare anche i settori produttivi, visto che tu hai lanciato il tema, la battuta sugli economisti, mi stanno scrivendo gli ascoltatori, la battuta di Gombrowicz, l'economista è un maniaco di un ordine inesistente. Bah, fosse solo questo, traffico. Focus Economia. Allora, i settori produttivi, se ho ben capito Luca Paolazzi, ancora molto debole è l'attività nelle costruzioni. Noi abbiamo avuto anche ospite il presidente dell'ANCE la settimana scorsa, che diceva insomma qua gli investimenti nel 2016, gli investimenti pubblici sono tornati a calare in maniera preoccupante. Luca? Sì, quello che abbiamo rilevato in questi mesi è che ci sono alcuni settori nei quali la produzione industriale, durante questa fase di risalita che è cominciata diciamo nella seconda metà del 2014, in realtà è scesa, e quindi abbiamo tanti settori, in alcuni dei quali la caduta della produzione è proseguita anche a ritmi molto sostenuti, e questi evidentemente non hanno a che fare, non è una questione di fenomeno congiunturale, ma un fenomeno evidentemente di riaggiustamento strutturale. Stavo per dire riequilibrio, ma mi è venuta in mente la battuta che tu hai letto poco fa, e in realtà però devo dire che gli economisti parlano anche di equilibri multipli, ecco. E tra questi equilibri multipli c'è quello che Keynes aveva individuato come quello di equilibrio di disoccupazione, dove il mercato non si aggiusta, equilibrio di depressione anche, no? Quindi diciamo lì ci vuole l'intervento pubblico, quindi attenzione agli equilibri, anche perché assolutamente l'equilibrio non è sempre positivo, no assolutamente. Quindi tu dicevi la senza investimento, no, questo per rispondere a altri messaggi invece, perché stanno arrivando molti messaggi sia su WhatsApp che come SMS. È chiaro che poi dovrà essere preso in considerazione dal ministro dell'economia Padoan e dal presidente del consiglio Renzi in fase di elaborazione della legge finanziaria o legge di stabilità, come si chiama adesso, perché sappiamo tutti che meno cresce il PIL, più aumenta il rapporto deficit-PIL, e quindi c'è un tema anche di promesse e richieste che arrivano dall'Europa. Insomma, ci sono tanti elementi su questo, ma al di là del deficit, anche lì, se faremo al 2,6, al 2,3, al 2,4, il problema vero è che il 2006, per un insieme di motivi, si sta rivelando un anno non di irrobustimento del 2015. Luca Paolazzi, ti rifaccio la domanda che ho fatto anche prima, ma è chiaro che la crescita mondiale è rallentata e quindi anche dall'export arriva un minor contributo alla nostra produzione, ma che non riesce però a essere riequilibrato dai consumi interni, mi sembra di capire. In realtà i consumi interni che erano pur cresciuti nel 2015, certo. Sì, e continuano ad aumentare, così come aumentano gli investimenti. Quello che notiamo, stando diciamo alle indagini qualitative e quindi intervistando gli imprenditori che producono beni di consumo o beni di investimento, quello che si nota è un andamento degli ordini sul mercato interno che è in rallentamento. Questo non significa in discesa, quindi non significa che non crescono, aumentano però a un passo più lento. Ora, non che prima aumentassero a grande velocità, diciamo poco sopra l'1% i consumi su base annua, se rallentano vanno sotto questo 1% ovviamente. E gli investimenti invece, soprattutto i macchinari, marciano più spediti grazie anche alle politiche adottate dal governo in termini di superammortamento, nuova Sabatini, eccetera. È chiaro che sugli investimenti si gioca una partita importante, perché gli investimenti hanno un doppio ruolo, sia quello di domanda nell'immediato, sia quello di irrobustire la competitività, perché significano innovare gli impianti, andare verso questa famosa industria 4.0, eccetera, eccetera. Per competere in questo mercato che è sempre più complesso, sempre più difficile da prevedere e sempre più volatile e rapido nei mutamenti, occorre attrezzarsi tecnologicamente. Luca, un'ultima domanda invece sulle politiche. Noi sappiamo che la crescita non si fa per decreto né per politiche economiche, però possono essere agevolate. A questo punto, se tu dovessi dare un consiglio non solo ai governi nazionali, ma a questo punto anche ai governi europei, che cosa si potrebbe fare per, non dico raddrizzare, ma almeno evitare che il 2016 sia un anno, non dico perso, ma un anno di una quasi stagnazione? Perché se andiamo allo 0,6-0,8, insomma, si va a una debolissima crescita. C'è qualcosa che si può fare per raddrizzare l'anno o no? Per realizzare l'anno temo che siamo a metà anno, è un po' difficile. Teniamo presente che ci sono gli effetti di trascinamento e la media di quest'anno ormai ce la siamo giocata tra quello che era accaduto alla fine del 2015 e quello che è accaduto nella prima metà di quest'anno. Il tema è non sprecare il 2017 in questo momento, e per non sprecare il 2017 occorre constatare che ciò che manca nel Unione Europea e in particolare l'Unione Monetaria Europea è il dinamismo della domanda interna. L'area dell'euro ha un enorme surplus corrente con il resto del mondo, circa 3,5 punti di PIL, se non ricordo male. Quindi esporta, per far capire tutti, non ha problemi nell'esportare. Noi consumiamo nel senso lato del termine, cioè utilizziamo risorse, questo è il significato del termine consumare, meno di quante ne produciamo di risorse, quindi ci poggiamo sulla domanda dell'estero. Ora, questo è abbastanza inconcepibile per un mercato che è il primo del mondo, che è un mercato di alto reddito, mediamente ovviamente, perché poi c'è un effetto di distribuzione dentro questa media, e per cui bisogna anche tener conto di questa distribuzione, però generalmente siamo nazioni ricche e ci facciamo trainare dalle nazioni povere, che sono i mercati emergenti. Questo diciamo è abbastanza singolare, uno scandalo. No, lo chiarisco, perché quindi domanda interna significa investimenti europei pubblici. Tanto sempre ritorniamo, ne abbiamo già parlato altre volte, no, lo dico a chi scrive: tendenza in un mondo normale, quello immaginato dagli economisti, così resta sulla battuta, sono i paesi, le economie emergenti che vivono più di esportazioni che di consumi interni. Le economie già avanzate, ricche come siamo noi e mature, vivono più di consumi che di esportazione. È singolare che una delle aree più ricche del pianeta, che è l'area euro e resta l'area euro, basi la sua crescita più all'esportazione che ai consumi interni. Tutto qua. Grazie intanto a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Andiamo verso il GR24, la borsa la commentiamo dopo, più 0,25% Milano, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia e WhatsApp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sì, torniamo sempre al tema degli investimenti pubblici, ma perché non l'abbiamo mai affrontato? Cioè, ogni volta lo evochiamo e poi si spera sempre che la crescita arrivi grazie ai miracolistici consumi interni e a una domanda estera che però diventa troppo rischioso come unico aggancio per tornare a crescere. GR24. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Tutti i sabati con voi in diretta qui su Radio 24, la compagnia dei conti della Belva, cioè Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, tutti i sabati dalle 10 alle 12, perché i conti della Belva lo sapete, ma comunque ricapitoliamolo, perché si tratta di spiegare a voi, noi, ma soprattutto di dirci voi in diretta chiamando, ma è vero o meno che la ripresa italiana è così forte come dicono? È vero o meno che lo Stato non è vero che spreca tanti i suoi soldi? È vero che paga i suoi debiti? È vero che non è vero che paghiamo troppe tasse? Insomma, un inizio di fine settimana dalle 10 alle 12 in diretta con un po' di sana indignazione. I conti della Belva, mi raccomando, ascoltateci. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per la seconda parte di Focus Economia. Vedo ancora molti messaggi sulle previsioni del Centro Studi Confindustria e anche su quanto prima raccontato e analizzato da Intesa San Paolo. Andiamo avanti, però poi sentiremo anche le analisi e le valutazioni, più che analisi, di Mario Draghi. Andiamo avanti con la borsa invece, più 0,25%, Milano in chiusura, dicevo Parigi invariata, Francoforte più 0,1%, Londra meno 0,4%, Dow Jones meno 0,33%, i titoli devo dire poco mossi, a eccezione del Banco Popolare più 4, Popolare Emilia Romagna più 3,20, Ferragamo più 3, Unicredit più 2,13, Azimut più 2, poco mossi soprattutto in negativo, Prismian ha perso l'1,40, Unipol l'1,40 anch'essa, Saipem meno 1%, Ubibanca meno 0,70 come Terna e Snam Rete Gas. Eleonora Micheli, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, delle parole di Draghi parleremo fra poco. Comunque è chiaro che il fatto di aver detto i tassi saranno invariati nei prossimi mesi, forse anche più bassi, e che comunque si possono applicare in casi eccezionali anche operazioni di sostegno pubblico alle banche, poi ascolteremo in che casi, con un accordo con l'Unione Europea, un impatto l'ha avuto, ed è forse questo il motivo, Eleonora, per cui molte banche oggi hanno rimbalzato? Sì, esatto, infatti le banche erano abbastanza contrastate, andava bene diciamo MPS e pochi altri titoli, invece dopo le parole di Draghi ovviamente hanno imboccato tutta la strada del rialzo e peraltro con convinzione, hanno poi chiuso sotto i massimi toccati appunto dopo le parole di Draghi. MPS alla fine invece è stata la più riflessiva, perché si attendono quest'oggi novità proprio dal Consiglio di Amministrazione straordinario e dunque c'era molta cautela, anche se si scommette che sarà trovata una soluzione proprio sul fronte delle sofferenze. Alla fine anche Mario Draghi è stato possibilista sull'eventualità di un intervento pubblico. Eh sì, fra poco lo ascolteremo ancora. Oggi c'era il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, giusto? Sì, sì, proprio per questo appunto dicevo che rispetto ad altre banche alla fine ha registrato una performance più cauta, sono andate meglio, ad esempio il Banco Popolare è salito quasi del 4%, la BPER è più 3,2%, anche Unicredit a un certo punto era arrivata a guadagnare il 4%, poi ha chiuso in progresso del 2,1%, continua a ricevere peraltro anche giudizi positivi da parte degli analisti, che però tutti ritengono che sia necessario un aumento di capitale, si parla anche fino a 7,5 miliardi. Comunque si dice già scontato dai prezzi a cui quotano le azioni di Unicredit. Allora, per quello che riguarda il Monte dei Paschi, faccio notare che oggi il Financial Times ha un approfondimento dedicato proprio al Monte dei Paschi, in cui indica un livello di prezzo a cui cedere le sofferenze bancarie. Allora, le sofferenze mediamente e in bilancio sono iscritti anche nel caso Monte dei Paschi a 40 centesimi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è qualcuno a cui tu hai prestato un euro, l'hai già messo in parte in sofferenza, cioè che non ti ritornerà l'euro che gli hai prestato, ma il 40%, 40 centesimi. In realtà quello a cui puntano i fondi cosiddetti avvoltoio, quelli che vorrebbero rilevare le sofferenze per poi cercare di guadagnare sulla differenza di prezzo, e usando come riferimento i non performing loans, sofferenze bancarie delle quattro banche, le famose Etruria, Chieti, Ferrara e Marche, in risoluzione dello scorso novembre, lì il prezzo fu di 20 centesimi. Allora il Financial Times dice che se vi fosse un salvataggio a 34 centesimi per euro, cioè il 34% del valore, sui crediti deteriorati, quindi meno di quanto il Monte dei Paschi li ha in bilancio a 40 centesimi, ma più, decisamente più di quanto il mercato vorrebbe offrire, potrebbe essere un salvataggio per mettere fine a tutti i salvataggi. Che il prossimo salvataggio sia l'ultimo è l'invito del Financial Times. Chiudo su questo e invece andiamo anche su altri titoli. Abbiamo visto Prismian -1,40, Unipol -1,40. E Eni era debole durante la seduta, ha perso lo 0,50%. Sì, per quanto riguarda Eni è stata uno dei titoli più deboli, anzi poi ha chiuso sotto i minimi toccati in giornata. In questo caso pesa la bocciatura dell'arbitrato internazionale con GasTerra. Ricordiamo che la compagnia aveva chiesto che fossero rivisti i prezzi tariffari sul gas, ma evidentemente non ha avuto ragione, e quindi questo avrà un impatto sui conti di quest'anno, alcuni analisti dicono fino a 300 milioni sull'utile operativo. E ovviamente una notizia negativa che ha fatto soffrire le azioni per tutta la seduta. Ancora andiamo sui migliori e peggiori della seduta. Neurosoft più 12,3, Volkswagen dopo i conti di ieri più che buoni e più 9,60%, Italia Independent più 8,40, Fincantieri più 5,80%. Il fronte opposto invece vede Deutsche Lufthansa meno 8,60%, PRL meno 7%, Gala meno 6,40%. Invece sulla Germania, ma sul titolo Deutsche Bank, ho visto oggi una dichiarazione, se non ricordo male era di Soros, che diceva che il problema più grosso della Germania è proprio Deutsche Bank in questo momento. Volete sapere il rapporto di cambio? L'avevo detto prima, comunque lo ridico, è 1,10. Quindi pochissimo mosso anche il rapporto di cambio euro-dollaro. Grazie intanto Eleonora Micheli. Noi iniziamo la lunga pagina sul Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea e soprattutto sulle parole pronunciate da Mario Draghi. È molto difficile capire l'impatto di questa grande incertezza geopolitica sulla ripresa dell'economia, perché i canali che verranno colpiti non sono così prevedibili. Per esempio, nel caso della Brexit, ad essere colpito innanzitutto potrebbe essere il canale degli scambi commerciali. Ci chiediamo però se rappresenta il canale più rilevante per esprimere l'impatto di un tale evento sulla zona euro. Infatti, alcuni potrebbero invece pensare al canale della fiducia o a quello finanziario come i più interessati dalle conseguenze. Nel caso della Turchia è molto probabile che gli eventi colpiscano innanzitutto il canale della fiducia, ma è molto difficile prevedere l'impatto sulla ripresa della zona euro, almeno per quanto riguarda il futuro immediato. Allora, siamo partiti dal passaggio che riguardava la situazione degli ultimi giorni, quindi Brexit e tentativo di colpo di Stato in Turchia e reazione durissima, purghe da parte del presidente Erdogan. Alessandro Merli, che è corrispondente sulle 24 ore da Francoforte e in questo caso ha seguito anche appunto il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, buonasera. Buonasera a voi. Chiariamo il punto delle tensioni internazionali, poi dopo il traffico andremo invece alla parte delle banche europee, non performing loans e intervento pubblico. Draghi ha detto, se ho ben capito, però chiedo a te conferma, insomma, l'impatto di Brexit e soprattutto della Turchia non riusciamo ancora a stimarlo correttamente? Sì, lui ha detto ci sono dei venti contrari nell'economia e questi venti contrari vengono soprattutto dalla geopolitica. Uno di questi è Brexit. Siccome qualcuno gli ha chiesto se era vera la stima che era circolata nelle scorse settimane che la BCE penserebbe a un taglio della crescita, diciamo pari allo 0,5% nei prossimi tre anni, lui ha detto ma non è il momento ancora di fare delle previsioni, non abbiamo le informazioni, è troppo presto, tutte le previsioni vanno prese con un certo grado di cautela. Sulla Turchia poi ha detto, come avete trasmesso, che appunto non c'è modo. Per quello che riguarda Brexit, gli elementi che Draghi ha citato sono la lunghezza e il risultato dei negoziati fra la Gran Bretagna e l'Unione Europea per l'uscita appunto di Londra dalla UE, e questo richiederà del tempo per essere valutato. In ogni caso Draghi ha detto aspettiamo di vedere anche le nostre nuove previsioni che usciranno a settembre e poi eventualmente siamo pronti ad agire. E questo per quello che dimostra appunto quanto anche prudente sia la Banca Centrale Europea nel valutare l'impatto sia di Brexit nel caso specifico invece della Turchia. Dopo il traffico, le informazioni sul traffico, invece la parte che riguarda le banche europee, la flessibilità possibile e anche l'ipotesi di un intervento pubblico. Focus Economia. La politica monetaria certamente sostiene l'attività economica e ha come obiettivo mantenere la stabilità dei prezzi. Però sono necessarie altre misure per allargare il più possibile i benefici della nostra politica monetaria. Una di queste misure è quella di affrontare il tema dei crediti deteriorati nella zona euro. Questa è una riforma molto importante ed è una questione che va affrontata. Sull'ipotesi di aiuti di Stato alle banche abbiamo le regole europee e, come ho detto diverse volte, queste regole contengono tutta la flessibilità necessaria per affrontare circostanze eccezionali. I poteri e la responsabilità dell'attivazione di queste regole ricadono sulla Commissione europea. And the responsibility in activating these rules and in complying with these rules lies with the Commission. Allora, Alessandro Merli, c'è chi sta titolando nei siti, insomma, dal bazooka. Il bazooka era gli strumenti, il bazooka di Draghi per salvare l'euro dall'attacco speculativo a 2012 al paracadute, giocando appunto, guarda come siamo ridotti, dal bazooka al paracadute. Parliamo del paracadute, perché questo passaggio è quello in cui Draghi dice attenzione, le banche hanno la flessibilità necessaria data dalle norme europee, però ci può essere un paracadute pubblico in casi eccezionali? Sì, il paracadute pubblico ci può essere. Draghi precisa anche che non è competenza sua decidere se questo debba essere utilizzato e quando, cioè la competenza sta con la Commissione europea. Sì. Però ricorda che nelle regole ci sono degli elementi di flessibilità. Il riferimento al paracadute è anche al fatto che Draghi suggerisce una serie di soluzioni per questa questione degli NPL o crediti deteriorati che le banche non riescono a incassare, cioè fare una legislazione che favorisca appunto l'incasso delle garanzie, la revisione delle leggi fallimentari, eccetera, eccetera. La creazione di un mercato che al momento non esiste per questi crediti deteriorati. Dice, se però dobbiamo evitare una svendita di questi titoli, che poi avrebbe effetti devastanti sui bilanci delle banche, possiamo anche far ricorso a un, chiamiamolo paracadute pubblico, ma è vero che appunto la BCE non è l'organismo, quindi non è il paracadute di Draghi eventualmente, non è, la BCE non è l'organismo competente a decidere, dice Draghi, su questa questione. Però poi Draghi, dell'ultimo aspetto che ho per te, chiede una certa fretta nel caso dell'Italia soprattutto, ma dice, attenzione, i crediti deteriorati delle banche italiane sono un grande problema, che per essere risolto ha bisogno di tempo, nel senso che dice bisogna agire in fretta, sembra quasi un ossimoro, adesso lo ascoltiamo, ma attenzione che per evitare che questo vada a penalizzare le banche, quindi a creare poi un danno all'intero sistema bancario, aumenti di capitale, credit crunch, non pensate che possa essere risolto in un giro molto breve di tempo. About the NPLs in Italy, it's a big problem, it's going to take time. Circa i crediti deteriorati in Italia, si tratta di un grande problema e ci vorrà tempo prima che sia risolto. Ovunque ci è voluto tempo per risolvere questo problema, soprattutto quando è stata raggiunta una dimensione notevole di questi crediti. Ma dobbiamo essere consapevoli che più tempo restano nelle banche questi crediti deteriorati, meno efficiente sarà il sistema bancario, o almeno lo saranno quelle banche con più alti livelli di crediti deteriorati. Queste banche saranno quindi meno in grado di trasmettere gli impulsi della nostra politica monetaria all'economia reale. Inoltre, un alto livello di crediti deteriorati rende le banche più vulnerabili. Abbiamo visto recentemente che ad essere colpite sono state in particolare le azioni delle banche che più hanno NPL. E una delle ragioni per cui è così è che mette in dubbio la futura redditività. Quindi, da un lato, ci sta un interesse a risolvere il più velocemente possibile il problema. Dall'altro, si è vincolati dal fatto che è un problema intrinsecamente lento da risolvere. Cosa si può fare, allora? Una delle misure è quella di avere un mercato degli NPL ben funzionante, creare un quadro legislativo dove i crediti deteriorati si possono vendere facilmente. Alcuni passi sono stati fatti in Italia, vanno nella giusta direzione, ma si può fare di più, anche per affrontare il retaggio di NPL degli anni passati. And should be done especially to address the legacy NPLs, the past stock of NPLs. Allora, chiedo aiuto a Alessandro Merli per l'interpretazione tra virgolette autentica, perché insomma dire agire in fretta ma ci vuole tempo sembra, non dico un ossimoro, ma un po' cerchi bottista. In realtà, che di cosa ha paura Draghi? Draghi semplicemente descrive un problema vero. Noi cerchiamo sempre, per quello che possiamo, di semplificare i problemi. Però qui ci sono questi due aspetti. Da un lato le banche vanno liberate di questi NPL o crediti deteriorati il più presto possibile, dall'altro non è una cosa che si espurghi, diciamo, in tempi rapidi, e Draghi ricorda che l'esperienza di altri paesi e di altre banche è stata la stessa, cioè ci vuole del tempo per fare questa operazione, quindi si può cercare di accelerarla creando questo mercato in cui poi questi titoli, questi crediti che non vengono pagati possano essere venduti dalle banche. Però insomma c'è un po' in effetti un dilemma, cioè la necessità di liberare le banche rapidamente, al tempo stesso è un processo lungo di non svendere. Esatto, Draghi ha proprio usato in una frase precedente la parola svendita. Dobbiamo evitare che avvenga una svendita. Perché? Perché se avviene una svendita, ovviamente le banche subiscono perdite molto pesanti e quindi rischiano di certo andare sotto, insomma, quindi rischiano di fallire. Per cui liberiamo di questi crediti, ma cerchiamo di farlo bene questo lavoro. Insomma, non è facile la cosa, ecco, appunto, noi cerchiamo sempre di semplificare, ma ci sono delle cose che richiedono. Anche perché mi chiedono gli ascoltatori, dei tempi. Ma non avevano garanzie le banche su questi crediti? Attenzione, è chiaro che avevano le garanzie, però come abbiamo spiegato in molte puntate, un conto è una garanzia su un mutuo, anche quello è un credito bancario, no? Un mutuo, perché la casa è un bene che ha un grosso mercato, poi può cadere il prezzo, ma è un bene tra virgolette abbastanza liquido, c'è un mercato per cui la valutazione di quanto ti possa tornare dal creditore che non riesce più a pagarti è abbastanza facile. Molto più complicato anche per i soggetti terzi ed esterni capire quanto vale, poniamo, un capannone che tu hai dato o dei macchinari che tu hai dato a garanzia, perché non è un mercato come quello immobiliare classico del residenziale o della seconda casa. Adesso vedo un'agenzia però che devo leggere, perché sarebbero giunte due offerte per l'acquisto delle quattro cosiddette nuove good bank nate dalla risoluzione di Cari Ferrara, Banca Etruria, Cari Chieti e Banca Marche. Secondo fonti finanziarie, le buste che il notaio, la scadenza del termine, scadeva oggi alle 18, ha consegnato all'advisor del fondo di risoluzione, che è la banca Société Générale, conterrebbero anche l'offerta dei fondi Apollo da un lato e Lone Star dall'altro. Riservato il valore economico delle offerte, però dovrebbe essere decisamente inferiore al 1.650 milioni che le altre banche italiane hanno versato per salvare le quattro banche incriminate, le quattro banche a fine novembre. Un'ultima battuta, Alessandro Melli, sull'altro titolo, a mio avviso, che faranno le parole di Draghi, oltre a quello sulla possibilità, la flessibilità e il paracadute pubblico. Lui ha detto: attenzione, i tassi li tengo così o anche più bassi a lungo. E in questo sì. Prego. Questa è la ripetizione della linea che la BCE ha, diciamo, da mesi, cioè loro non intendono alzare i tassi, anzi, se necessario, intendono abbassarli di nuovo. Si rifà, diciamo, quel discorso di prima su come si evolverà la situazione economica con quei venti contrari di cui abbiamo parlato, Brexit, le altre incognite geopolitiche, e a quel punto si vedrà come agire. I tassi sono uno degli elementi. Draghi non lo vuole escludere, non si vuole legare in nessun modo, anche se si sa che sui tassi siamo arrivati vicino al fondo, nel senso che poi ci sono delle conseguenze indesiderate sul sistema bancario, di tassi di interesse troppo bassi, eccetera. Però insomma vuole tenersi tutte le armi ancora a disposizione. A questo punto aspetterà settembre, ci saranno le nuove proiezioni dello staff, degli economisti della BCE, e vedremo se a quel punto la BCE riterrà di agire. Allora, grazie anche Alessandro Melli in collegamento con noi da Francoforte. Veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.